Europa 24. Buongiorno anche da Gigi Donelli. Dunque noi ripartiamo dal saluto, l'addio di Martin Schulz oggi all'Europarlamento. La democrazia transnazionale rappresenta nel Parlamento europeo un patrimonio oggi in grande pericolo, ha detto. Ovunque nel nostro continente separatismi e ultranazionalismi sono in crescita e mettono a rischio uno dei più importanti risultati della civiltà che il nostro continente abbia mai visto. Questo uno dei passaggi del discorso d'addio di Martin Schulz che sentite in sottofondo. C'è stato anche un momento di scambio piuttosto vivace quando i gruppi euroscettici l'hanno interrotto, hanno interrotto il suo intervento. Lui ha replicato: gli attacchi da parte vostra sono un orgoglio per qualsiasi europeista democratico. Martin Schulz dunque che lascia, naturalmente vi abbiamo raccontato insomma che ci sono già parecchie candidature per sostituirlo nel ruolo, due sono italiane, in particolare Pittella Tajani rispettivamente per il Fronte dei Socialisti Democratici e per il Partito Popolare. Staremo a vedere, naturalmente seguiremo anche questo percorso. Adesso cambiamo invece tema. Domani vertice UE, giornata secca contrariamente alle abitudini, l'ultimo della presidenza della Slovacchia, con un clima diciamo di scontro piuttosto animato sul grande tema della immigrazione. Allora abbiamo sentito Cecil Kyengan, Migliorati l'ha intervistato per parlare appunto del vertice. Dice tra l'altro: non concludere nulla domani sarebbe il male minore, perché se dovesse passare la proposta della presidenza di Bratislava paesi come l'Italia verrebbero penalizzati. Sentiamola. La proposta fatta dalla Commissione, in qualche modo quella che anche il Consiglio sta accarezzando, è quella di andare verso una solidarietà flessibile, cioè chi non accoglie paga. Nel mese di aprile il Parlamento aveva già indicato la sua via maestra, cioè la proposta che avevo fatto io nel dossier votata a larghissima maggioranza era quello di andare verso un sistema centralizzato e non semplicemente di fare una domanda a livello di un singolo Stato membro. La Commissione non ha avuto il coraggio di fare questo, ha lasciato tutta la responsabilità a livello degli Stati del singolo Stato membro, cioè dei paesi frontalieri, quindi le persone che arrivano sul territorio rimangono nel primo paese di approdo. Manca la vera solidarietà. Sì. La proposta della presidenza di turno non fa in qualche modo un passo indietro rispetto alla proposta della Commissione? Molti passi indietro, perché la presidenza attuale ha interesse a non modificare Dublino, anzi a peggiorare Dublino. La prossima presidenza, che è quella di Malta. Malta che è un paese del sud e noi speriamo che vada nella nostra direzione. Diciamo il vostro obiettivo è che domani non si concluda nulla in qualche modo. Sarebbe il male minore, perché noi speriamo di cambiare qualcosa, ma non vogliamo cambiarlo con la presidenza attuale che rischia proprio l'Italia a essere penalizzato, perché se un paese membro non dovrà essere in grado di adempiere ai suoi doveri di accoglienza, potrebbe essere penalizzato non chi non accoglie, ma piuttosto chi accoglie e non riesce ad adempiere ai suoi doveri, quindi proprio l'Italia. Quindi noi facciamo un muro come sistema paese, indipendentemente dall'appartenenza del gruppo politico, per rigettare questa proposta. Indubbiamente l'Italia è contraria. Chi sono i favorevoli, a parte il blocco dell'Est che si è apertamente schierato? Sicuramente molti paesi del nord, e questo a fronte a un clima generalizzato in tutta Europa dove siamo e viviamo in eterna campagna elettorale. Quindi temi come queste diventano temi di strumentalizzazione politica. E quindi la campagna elettorale francese piuttosto che tedesca. Perfettamente. E anche loro potrebbero beneficiare di tutto questo. Quindi in questo clima così, con un approccio elettoralistica, ci penalizza parecchio. È tutto per questa edizione. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Adesso naturalmente il nostro spazio dedicato allo sport. Siete tutti convocati. A domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.